Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. Continuiamo la nostra conversazione con Piero Gattoni, presidente del CIBI, il Consorzio Italiano Biogas. Buonasera Gattoni. Buonasera Melis. Allora, ieri abbiamo parlato del fatto che il 5 agosto scorso il GSE ha rilasciato le ultime regole che completano il quadro regolatorio per il trasporto del biometano e anche per l'incentivazione della produzione di biometano, che ricordiamo si ottiene raffinando il biogas. È un gas che producono i batteri quando degradano la materia organica in assenza di ossigeno ed è ricco appunto di metano. Ora, in Italia si sono definite le regole con cui questo metano può essere separato, diciamo, dal biogas e finalmente anche distribuito, perché sennò ve lo dovevate ottenere lì o bruciare in una piccola centrale elettrica e vi venivano riconosciuti degli incentivi. Ora, finalmente il biometano diventa qualcosa di trasportabile, anche se solo all'interno di bombole e anche se destinato per il momento solo all'utilizzo come biocarburante. Dunque Gattoni, a proposito proprio di biocarburante, voi come agricoltori non è che di carburante ne utilizziate poco, potete utilizzare direttamente questo biometano che producete nei vostri mezzi agricoli? Ma noi riteniamo che questo sia il motivo per cui è particolarmente interessante e strategico aver chiuso questo percorso autorizzativo e poi incentivante del biometano all'interno dei trasporti, proprio perché come imprese agricole tendenzialmente non siamo grandi autoconsumatori di energia elettrica, mentre abbiamo parecchio autoconsumo di tanto carburante. Consumo di carburante, certo. Quindi immaginare in futuro un'agricoltura più, diciamo, sostenibile significa anche immaginare un'agricoltura che dai propri sottoprodotti possa prodursi anche parte del carburante che va ad utilizzare, quindi con un notevole impatto sul miglioramento della competitività delle nostre aziende, certo, che sta sul mercato globale, cui i prodotti dovranno spendere meno, e con anche un migliore impatto dal punto di vista ambientale, certo, quindi rispondendo anche a una sensibilità giusta. Ecco, perché bruciare metano produce molti meno inquinanti in linea di massima che bruciare gasolio, che è quello che normalmente si consuma nei mezzi agricoli. Da questo punto di vista c'è un'altra peculiarità abbastanza italiana. Proprio in Italia sono nati i primi sistemi per far funzionare a metano dei mezzi diesel. Era un problema tecnologico in realtà non banale da risolvere, per ragioni che adesso non stiamo a spiegare, ma direi che se c'è un paese dove queste tecnologie hanno raggiunto dei livelli di eccellenza è proprio l'Italia. Ma è un tema molto interessante. Noi in Italia abbiamo i leader industriali sui motori a metano e sono leader riconosciuti in tutto il mondo. Sì, certo. Proprio il fatto di poter produrre oggi, diciamo, motori che possono andare anche con diesel e parzialmente metano, fa sì che si possano convertire anche mezzi che per esistenti, possono essere esistenti, ottenendo quindi un risparmio di parte percentuale del carburante che viene utilizzato. Ecco, è una cosa che si fa? È una cosa che sta iniziando a farsi. Noi abbiamo per esempio un'esperienza in azienda per cui stiamo immaginando di convertire i nostri camion che fanno la raccolta del latte nel nostro caseificio. Sono tutte, è una tecnologia che ormai sta entrando nelle aziende agricole, come pure presente ormai una tecnologia di motori a metano affidabili. Il regolamento per quanto riguarda produzione e distribuzione del biometano, dicevamo il 5 agosto scorso, ha fatto un importante passo avanti, però restano anche altri, diciamo, possibili utilizzi del metano che al momento non sono regolamentati. Che cosa vi attendete? Quello che manca nella sostanza è oggi la possibilità di andare non solo extra rete, quindi con carri bombolai o carri cisterna, ma immettendo direttamente nella, certo, rete del gas. La procedura è ferma perché stiamo ancora attendendo da Bruxelles che vengano definite, okay, gli standard qualitativi del biometano. Tutta questa vicenda del biometano ha un futuro che va al di là degli incentivi? Abbiamo visto in questi anni che non sempre gli incentivi sono riusciti a lanciare un mercato che poi andava con le sue gambe. Ma è sicuramente possibile. La grossa potenza è che un digestore anaerobico stravolge il modo di fare impresa agricola, perché non facciamo solo elettroni rinnovabili, oggi li facciamo, in futuro ne faremo, ma facciamo anche potenzialmente un biocarburante, oggi lo possiamo fare, la fine del processo ci produce un ottimo biofertilizzante che ci permette di ridurre il costi di l'utilizzo del biodigestato, okay. Quindi possiamo ridurre i costi dei concimi chimici e poi possiamo sicuramente gestire meglio gli effluenti zootecnici utilizzandoli quando serve e quindi avendo anche migliori risultati culturali. Perché questi possono andare ad alimentare il biodigestore, mentre se dovessero essere smaltiti potrebbe essere un problema, no? E questo è il punto. Sì, okay. Diciamo che vengono gestiti come una risorsa e riportiamo sostanza organica al terreno, perché non dimentichiamoci che il terreno è la base da dove parte tutto e il fatto che noi portiamo sostanza organica, quindi riportiamo carbonio al terreno è molto importante. Grazie Piero Gattoni. Grazie a voi. Ci fermiamo qui, appuntamento a domani.